9 in punto, la versione di Oscar. Ascoltatori, capita anche questo ovviamente, cioè capita che io rimanga senza parole di fronte a questo inizio settimana lunedì 30 luglio, perché non partono i Doors, non parte ne vengo anch'io e tutti mi guardano dall'altra parte del vetro, e però capita, perché sono gli inconvenienti quando si guarda troppo sport, quando si tifa troppo Pellegrini, quando la Pellegrini non vince le medaglie e poi alla fine ci si addormenta. Allora, buon inizio di settimana da 9 in punto, la versione di Oscar, auguri a chi si chiama Pietro Crisologo, se festeggia oggi con questo santo calendario liturgico. Di che cosa ci occupiamo oggi? Di due argomenti. Nella prima parte della trasmissione abbiamo con noi il sindaco di Torino, Piero Fassino. Io sono torinese, ogni tanto capita che mi sentiate occuparmi anche da questi microfoni un po' impropriamente, ma dei problemi della mia città che mi è cara. Perché ci occupiamo con il sindaco di Torino di un punto di che cosa sta avvenendo nella città? Perché Torino si trova, per in ragione degli investimenti elevati che ha fatto negli anni passati, ad avere il poco invidiabile, ma è così, primato di avere il debito pro capite più alto per debito cittadino cumulato dei suoi cittadini. E allora Torino, tra le tante cose di controllo rigoroso sul bilancio, poiché viviamo in anni in cui i tagli e trasferimenti alle autonomie sono state la parte prevalente delle manovre adottate dai governi, ha avviato anche una serie di dismissioni pubbliche, nelle partecipate in particolar modo. Ce ne dobbiamo occupare perché, oltre che Torino in quanto punta dell'iceberg come debito più elevato, c'è stata una recente sentenza della Corte Costituzionale, l'avrete vista la scorsa settimana, che ha fatto un po' di pasticci, a mio giudizio, non vuole essere una critica, in realtà lo è, sì, si può esercitare il diritto di critica anche nei confronti della giurisprudenza costituzionale, perché è intervenuta non solo sulla materia dell'acqua, dove vi era stato un referendum, ricordate, l'anno scorso, ma ha fatto un punto di tutte le procedure di dismissione dei servizi pubblici locali, e a questo punto le misure che erano state adottate dal Salvataggio dell'anno scorso in poi, comprese le dismissioni a tappe delle partecipate quotate, che per esempio a Roma ponevano il problema della CEA e così via, a questo punto saltano tutte, quindi c'è un grande punto interrogativo che si è creato in materia di dismissione dei servizi pubblici locali per effetto di questa sentenza della Corte Costituzionale. Molti giuristi hanno ritenuto che questa sentenza interpretativa da parte della Corte sia andata oltre la questione che era stata posta esclusivamente in ragione delle conseguenze del Comitato dell'Acqua, e quindi ci occuperemo nella prima parte di questo. Nella seconda parte della trasmissione invece dell'appello, di questo appello che è uscito su sei giornali sabato scorso per la modifica dell'offerta politica, c'era anche la mia firma. Solo oggi ce ne occupiamo per onor di cronaca, perché qui io continuo a fare giornalista e non certo a sostenere il mio punto di vista. È uscito sul sito www.fermareildeclino.it, ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, ma intanto cominciamo con il sindaco di Torino, che è collegato con noi, e io lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno a Piero Fassino. Buongiorno. Allora, i giornali hanno scritto che Torino, malgrado la sentenza della Corte Costituzionale, procede. Io ricordo che voi avete un programma, per così dire, complesso, ordinato e organico di gare, di cessioni, di quote, di partecipate, e è accaduto innanzitutto con le quote della Sagat, che è la società che gestisce l'aeroporto, anche se però alla cessione della quota comunale non si è presentato nessuno. I giornali, tra cui Sole 24 Ore, hanno scritto: vedremo se adesso si fa avanti F2I oppure no. E adesso ci sono le quote che riguardano in particolare due altre società. Ma prima di entrare nel dettaglio, partiamo da questo. Il suo giudizio, quando lei si è trovato a ereditare, vincendo le elezioni, questa città e si è trovato con un debito che è un debito elevato, perché sono 3.300 euro, ha calcolato la CGA di Mestre, per ogni torinese, come se l'è sentita? Che cosa cosa si prova ad avere la città più indebitata d'Italia? Ma intanto ho l'impressione che le statistiche Mestre qualche difetto di valutazione ce l'abbiano, perché non siamo la città più indebitata d'Italia, abbiamo un debito certamente alto. Bisogna spiegare la ragione, perché come lei sa benissimo, come il sole spiega spesso, ci sono due modalità per fare debito: il debito da spesa corrente o il debito da investimenti. Il debito da spesa corrente è chi non controlla la propria spesa e ha una lievitazione continua dei costi del personale, della macchina organizzativa, del funzionamento, e a un certo punto si trova indebitato oltre misura. Non è il caso nostro. Gli ispettori che sono venuti, mandati da Bondi come in tutta Italia per accertare i dati per la spending review, hanno constatato che il livello di spesa corrente della città di Torino è nella media dei comuni italiani. Noi siamo molto indebitati per aver fatto molti investimenti. Si è fatta la metropolitana, si è interrato totalmente il sistema ferroviario cittadino, è diventato un sistema ferroviario metropolitano, si è fatto il termovalorizzatore, si è investito sul teleriscaldamento. Lei è torinese, ha visto come la città è cambiata in molti quartieri per grandi ristrutturazioni urbane, gli impianti olimpici, e alla fine tutto questo ha determinato un montante di debito molto alto, che naturalmente va pagato, anche se da investimenti. Però è bene precisare e spiegare che è una cosa diversa. Ma c'è la differenza tra chi butta i soldi andando al casino e chi si compra una casa con un mutuo. Noi ci siamo comprati una casa con un mutuo, non siamo andati al casino. Questo aspetti, ci tengo a dire, rispetto agli ascoltatori che mesamente dicono: oh, il sindaco. No, questo è un fatto, quello di cui parla Piero Fassino è un fatto certificato. Quindi, per favore, ascoltatori, non confondete le opinioni politiche, il dovere del giornalista, il dovere sì, no. Questo che ha detto il sindaco è un fatto certificato, cioè il debito di Torino si deve a questa roba qua, ad aver speso per investimenti. Mi scusi, ma era per precisare. Prego. Dopodiché è naturale che anche un debito di investimenti va pagato, e noi abbiamo cominciato a pagarlo. Io, diventato sindaco, ho deciso che non si poteva continuare a crescere pur investendo, che noi è dal 1998 che la città di Torino vedeva il suo debito crescere ogni anno, e mi sono posto il problema di ricondurre questo debito a una dimensione accettabile. Già nel 2011, in sede di assestamento del bilancio, nel secondo semestre, io ho fatto una piccola riduzione di debito, piccola ma significativa, per segnare l'inversione di tendenza, 25 milioni di meno. Quest'anno aggrediamo il debito con molta più forza su due fronti. Per 85 milioni il debito sarà ridotto sul bilancio di esercizio, per rate di mutuo che paghiamo e per una serie di altre cose, per riduzione di spesa, eccetera, e per 300 milioni circa con una operazione straordinaria di dismissioni di partecipazioni. Noi abbiamo la fortuna di avere società nostre al 100%, buone società, che quindi hanno un valore sul mercato, ne dismettiamo una parte. L'aeroporto dismetteremo circa il 28%, non ci sono state offerte nella gara, ma non perché non ci siano interessi, perché per una legittima strategia iniziale chi vuole acquisire pensa che può acquisirlo dopo a trattativa privata, insomma è un fatto di tattica negoziale, ognuno legittimamente tutela i propri interessi come vuole. Comunque noi abbiamo manifestazioni di interesse. Oggi si chiude il bando di gara per la cessione del 49% dell'azienda dei trasporti, che è una buona azienda, e soprattutto sono in corso le procedure per bandire la gara per la filiera ambientale, il termovalorizzatore e l'azienda che accoglie i rifiuti. E qui l'azienda dei trasporti noi cediamo il 49%, per l'azienda raccolta rifiuti cediamo il 49%, mentre per il termovalorizzatore, che è sostanzialmente una grande macchina, un impianto, cediamo l'80%. Da questo punto di vista, l'andare avanti con il programma di cessione rispetto a questa sentenza che è venuta e che ha fatto scrivere a molti giornali stop a tutte le cessioni. Ma non è così. Ecco. La sentenza dice una cosa semplice: la sentenza ha cassato, cioè ha tolto, l'obbligo di dismettere le aziende pubbliche che facevano servizi in-house, cioè servizi interni per la propria città, senza avere questi servizi, ottenuto questi servizi sulla base di una gara, entro il 31 dicembre di quest'anno. Questo è quello che viene meno, cioè viene meno il limite temporale entro cui fare le dismissioni. Ma è pienamente facoltà, sulla base di una scelta, di ogni città di smettere le proprie partecipazioni, non avendo più il limite del 31 dicembre 2012. Se vuole, il fatto che sia tolto questo limite evita che si facciano, procedure di dismissione affrettate e convulse, perché siamo a 4 mesi, 5 mesi, il 31 dicembre 2012. Per il resto il diritto di ogni comune di dismettere le proprie partecipazioni è pieno, e noi che avevamo deciso queste dismissioni non perché c'era un vincolo temporale, ma perché dobbiamo appunto ridurre il nostro indebitamento, procediamo. Le chiedo, perché questo va singolarmente bene rispetto a delle dichiarazioni che ha rilasciato guardando alla politica nazionale e sul futuro rispetto al governo Monti, e c'era sui giornali di ieri riportato, lei ha dichiarato, insomma, in realtà ovviamente ogni schieramento, ogni partito, ovviamente lei è del PD, porta i suoi valori e le sue visioni, ma non vorrei che alcuni si illudessero, in realtà molti dei punti del governo Monti andranno portati avanti rispetto al contesto internazionale. Tra l'altro queste sono settimane in cui stiamo tirando fiato, perché Mario Draghi ha riallineato la Germania attraverso l'intervento coadiuvante della Francia e dell'Italia. Però basta pensare a come stavamo messi una settimana fa e sapere ricordare, e secondo me lei fa bene a ricordarlo, che siamo ben lontani dall'esserci allontanati dai rischi. Oramai ci abituiamo a pensare la soglia di questa mattina di spread, cioè 440-450, come se fosse una soglia normale. Naturalmente per le imprese e le banche italiane incorporare 350 punti base in più rispetto alle tedesche è pura follia. Ma lei ha detto questo, cioè bisognerà continuare su molti punti di Monti. Allora le faccio una domanda specifica rispetto a quello di cui stiamo parlando, in cui lei sta andando avanti a Torino dicendo c'è questo obbligo entro l'anno che cade per la Corte Costituzionale, ma noi dobbiamo rientrare del debito, e rientriamo anche cedendo parte delle partecipazioni che abbiamo. Secondo lei questa è una strada che seguite a Torino, ma andrebbe seguita con maggiore energia, con la stessa energia, io dico con maggiore energia, mi interessa sapere come la pensa lei, anche a livello nazionale, visto che lì c'è l'emergenza esattamente del debito pubblico? Io penso di sì, e aggiungo che ciascuna di queste dismissioni noi l'abbiamo concepita in primo luogo per ovviamente realizzare risorse per ridurre del debito, però al tempo stesso anche come progetto di politica industriale, perché io penso che l'apertura delle società partecipate o pubbliche a capitali privati, al mercato, non è solo un fatto finanziario, è un fatto anche gestionale, operativo, organizzativo, e se costruire società miste, perché di fatti questo sta avvenendo a Torino, da società interamente comunali a società miste, può consentirci di irrobustire queste aziende dal punto di vista della capitalizzazione, dal punto di vista della loro presenza sul mercato, dal punto di vista delle tecnologie che applicano. Beh, questo è un, come dire, è un investimento, anche questo è importante, no? Noi abbiamo una delle migliori aziende, non ve lo dico io, perché è riconosciuto, una delle migliori aziende di trasporto locale italiano. Tanto è vero che la gara che si concluderà oggi ha visto da mesi e mesi, vede molte manifestazioni di interesse, poi vedremo quante si siano sostanziate in offerte o no, e questo dipende dalle scelte di ciascuno. Ma certamente chi entra in questa società non entra in un carrozzone obsoleto e deficitario, entra in un'azienda che ha delle potenzialità, e se pubblico e privato insieme sono capaci di sviluppare ulteriormente, espandendone i servizi, l'area di mercato, la capacità di produrre sia servizi per i cittadini sia equilibrio finanziario, questo è un bene per tutti. Io penso che bisogna ragionare così. Senta, a proposito di politica industriale, proprio perché nel settore delle grandi utilities controllate dai grandi comuni, dalle grandi città, per anni ci siamo confrontati dicendo ci dovrebbe avviare un disegno per arrivare alla costruzione di pochi grandi player, magari d'Italia, non solo nazionale ma anche europea. E lei, Torino, in questo ha un'esperienza secondo me piena di luci critiche e non solo di luci illuminanti, che è quella con il gruppo IREN, cioè del gruppo Ligure, Piemontese, Emiliano. È un gruppo che è uscito dall'avventura in Edison con la minusvalenza pesante, che subisce un calo dei consumi di gas, energia elettrica, che rispetto al conto economico è pesante, perché si trova ad avere un debito che sta quasi arrivando al fatturato, perché sono 3 miliardi rotti di debito rispetto a 3 miliardi e mezzo di fatturato. E tra l'altro è un'esperienza che ha poi ha visto anche nelle altre città che hanno concorso con le proprie utenti alla costruzione del gruppo IREN, a Parma e Reggio, scatenarsi poi nel tempo polemiche. A Reggio c'è chi è convinto per esempio che a Torino ha usato IREN come una specie di banca a tasso zero, per cui ci hanno perso i reggiani e così via. La domanda che le faccio, Fassino, anche per il rilievo nazionale che della politica che lei ha fatto, non ci sarebbe da rimettere mano alla questione delle grandi utilities pubbliche, a maggior ragione dopo il bilancio amaro appunto dell'avventura Edison, di questo portage organizzato poi dalle banche italiane attraverso Fiat, del grande protagonista dell'energia francese, che poi alla fine ha fatto la parte del leone rispetto a quello che i comuni ci avevano messo? Conti con il mercato e le sue dimensioni, e le dimensioni che un'impresa deve avere per stare sul mercato non sono sempre le stesse, cambiano in relazione al mutare del mercato. Noi abbiamo un sistema di aziende nel campo delle multi-utility che è articolato in due fasce, entrambe che sono esposte a una criticità. Ci sono poche aziende di media dimensione, come ERA, ACEA, A2A, IREN, queste quattro, che sono aziende corpose, significative, con bilanci robusti, quindi aziende importanti, che però se le confrontiamo col mercato rischiano di essere a questo punto troppo grandi per essere piccole, troppo piccole per essere grandi. Quindi c'è il problema del salto di qualità, eccetera. Poi c'è una seconda fascia, che è quella secondo me più a rischio, che è tantissime aziende di servizi pubblici di tipo locale, al 100%, pubbliche o con apporto di capitale privato, ma in genere non significativo, che secondo me rischiano, diciamo, non solo ogni giorno, ma sono spesso finanziarie critiche. Allora, penso che occorra in tutto il campo dei servizi una strategia che si misuri con la necessità di dare alle aziende dimensioni di scala in grado di reggere il mercato. Questa è la ragione per cui ho sostenuto la necessità di lavorare come in Italia, come è accaduto in Germania, come è accaduto in Francia e in altri paesi, alla costruzione di grandi multi-utility di servizio in grado di essere un competitore sia nazionale che europeo che internazionale, come RWE tedesca o altre Suez in Francia, eccetera. La domanda che le faccio è non è un processo facile. No, infatti, perché questo è chiaro. Che poi... molto complesso, naturalmente. Processo complesso. Sono le due parole su IRE. Sì. IRE è una società molto giovane, perché ha alle spalle pochissimi anni di vita e ha messo ed è nata mettendo insieme, con questa logica di aggregazione che secondo me è stata lucida e giusta, le aziende di Torino, di Genova, di Reggio Emilia, di Parma e di Piacenza. Naturalmente è un'azienda che, proprio perché è giovane, non ha ancora realizzato pienamente un'integrazione totale tra queste aziende, e questo è un punto su cui proprio in questo periodo i dirigenti dell'azienda stanno lavorando. E ha sofferto anche di una situazione difficile di mercato nel campo dell'energia, eccetera, eccetera. Però è una società che ha enormi potenzialità, ed è un soggetto economico, imprenditoriale forte, al di là, diciamo, dell'indebitamento, che peraltro è in via di riduzione con una strategia di, proprio in questi mesi, il gruppo dirigente che sta mettendo in campo. È un'azienda di grandi potenzialità, come grandi potenzialità sono le altre grandi aziende, ERA soprattutto, ma anche A2A ovviamente, e anche ACEA. Il problema è come si può mettere in campo, e qui serve anche però il governo e non solo l'azione di poteri locali, una strategia che faciliti la cooperazione e la convergenza operativa tra queste aziende, fino a ipotizzare un grande soggetto di scala nazionale ed europea. Vede, signor Sindaco, però come in parte è già avvenuto, perché su un punto lei ha richiamato il contenzioso che si è aperto a un certo punto per il controllo, sì, di Edi Power, no? Tra Francia e Italia. Edi Power non è diventata interamente francese grazie al fatto che, con l'impegno del governo e la sollecitazione del governo, IRE. Aia, mi sa che è saltata la linea. Proviamo un secondo a ricollegarci, perché il ragionamento su IREN altrimenti resta resta a metà, e io volevo anche chiedere al sindaco un'ultima cosa: come si fa a interfacciarsi con il governo, il piano di politica industriale su questo, di dismissioni, secondo me, che servono per le società piccole che non hanno bacini ottimali, di razionalizzazione molto forte anche per quella medio grande, come si fa a interfacciarlo se lo si vede solo dal punto di vista del proprio campanile? Allora, sindaco, stava dicendo che sulla vicenda Edison, Iren è a 2A. Sollecitazione e impegno, impulso del governo, del ministro Passera, sono intervenuti e hanno fatto sì che Edi Power non divenisse francese come Edison, ma ci sia stato un accordo di suddivisione dell'asse, e Edi Power continua a rimanere italiana come secondo grande produttore energetico del paese. No? Ecco, questa operazione è stata fatta perché A2A e Iren si sono messi insieme per prendere il controllo di Edi Power. Nell'immediato questo ha aggravato ovviamente l'indebitamento certo. Questo è ovvio. Senta, ma in prospettiva le devo fare una domanda anche per poi il ruolo che ha avuto nell'ANCI e così via, ma in realtà per disegni di questo tipo, cioè per distinguere tutto il livello basso delle piccole partecipate di quello che poi il rapporto Nadia del Mulino chiama il socialismo municipale italiano, da ristrutturare e cedere, rispetto al livello medio da accorpare seguendo piani industriali per avere almeno un player d'Italia europeo e due più grandi. Come si fa, visti i problemi istituzionali che ci sono tra governo e autonomie, ed elevata conflittualità che c'è su Italia, eccetera, eccetera, che non abbiamo ancora risolto dopo anni, i tre quarti delle manovre sono stati messi in capo ai comuni e così via. Come può decidere se non oscurato da un punto di vista che è quello, io capisco l'ottimizzazione dal punto di vista di ciascun comune e di ogni autonomia è un punto di vista obbligato visto che uno ha le quote in mano, però ovviamente non è forse la prospettiva più giusta per un disegno nazionale. No, però io penso che qui soccorre la politica, perché se il governo mette attorno a un tavolo i grandi player, i principali grandi player del settore dei servizi, che sono poi per esempio nel campo appunto dei rifiuti dell'energia, quattro, sono ERA, A2A, Iran e Acea, e avvia un confronto con queste società, mette in campo anche la possibilità di interventi di aggiuntivi in termini finanziari, per esempio è chiaro che qualsiasi aggregazione di questo genere ha bisogno di una disponibilità finanziaria più alta, di un partner finanziario forte. Questo partner finanziario possono essere fondi privati che investono, ma può essere anche Cassa Depositi e Prestiti, che diventa partner finanziario di un'operazione finalizzata alla costruzione di una grande aggregazione delle multi-utility. No? Può quindi, essere F2I, che è insieme un grande fondo e per di più partecipato dalla Cassa. Possono essere i soggetti, però è chiaro che se c'è la presenza del governo che dice allora abbiamo questa strategia, abbiamo questo piano, vogliamo andare in questa direzione, ragioniamo insieme come lo si può fare con qualità. E ci mettiamo anche un moltiplicatore finanziario. Un moltiplicatore, questo aiuta e facilita. No? Ecco, però io mi faccia risolvere un problema. Io sono molto attento a questa cosa e mi interessa, mi appassiona anche perché è un progetto importante, interessante, bello da realizzare. In questo momento vedo un'altra criticità molto più grande. La criticità più grande è che noi discutiamo di cosa si fa a Torino, cosa si fa a Milano, cosa si fa. Ma attenzione, cosa sta succedendo? Sta accadendo in tutte le migliaia società di servizi pubblici di scala locale, piccoli e piccolini in giro per l'Italia. Non se ne sta occupando nessuno. Tendenzialmente sono quasi tutti deficitari. Quelli attivi sono una minoranza, ce ne sono, ed è bene vederli, valorizzarli. Ma la maggioranza sono invece passivi e deficitari, e quella è un'idrovora terribile di risorse se non si interviene. Perdonate, ma in questo rientro i Doors vanno ripristinati, perché questi scherzetti che mi fanno, e vanno ripristinati anche perché per 10 minuti adesso io vengo meno, chiedo scusa alla radio che mi ospita e devo venire meno perché non lo farò nei prossimi giorni ovviamente, c'è una notizia che mi riguarda e allora l'imbarazzo è, malgrado sia il conduttore, io me ne devo occupare. La notizia è che sabato è uscito questo appello di cui proprio da questi microfoni, 12 di luglio, San Gualberto, ve lo ricordate, vi annunciai, era il giorno in cui Berlusconi scendeva in campo e gli dissi vabbè ragazzi, ragazzi, allora ci siamo decisi, un po' di noi vi lancerà un appello pubblico, e questo appello è uscito sabato su 6 giornali italiani, è uscito sul Messaggero, sul Gazzettino, sul Mattino, è uscito sul Fatto, è uscito sul Foglio, è uscito sul Sole 24 Ore, e il manifesto, firmato oltre a me da altri 238, quindi sono 240 italiani, sono 240 italiani professionisti, manager, imprenditori, esponenti di associazioni culturali, della società civile. Ecco, questo appello è un appello, forse qualcuno di voi lo ha visto, in cui diamo alcuni giudizi intorno a come cambiare marcia, perché l'Italia altrimenti va a sbattere con certezza. Il giudizio che aggiungiamo è che nell'offerta politica attuale, secondo noi, non c'è chi interpreta e sostiene con chiarezza il cambio di marcia che è necessario per evitare di sbattere, per evitare che continui quell'epopea negativa e drammatica che è stata da questi microfoni rilanciata quando abbiamo aperto le nostre orecchie e i nostri microfoni a disperati mai, cioè a migliaia e migliaia di italiani che diventano ex produttori perché la piccola impresa sul mercato domestico non ce la fa più. E questo riguarda sia gli imprenditori che naturalmente i loro lavoratori, i loro collaboratori, le loro famiglie. E poi ci sono milioni di italiani che però di questo passo non è che solo diventano da produttori e ex produttori. Produttori non lo diventeranno mai. Una generazione intera tagliata fuori, donne, meridionali e così via. E in questo appello, su questi 6 giornali, noi abbiamo rinviato a un sito che si chiama www.fermareildeclino.it, fermareildeclino.it, in cui trovate 10 punti programmatici più scanditi, più approfonditi rispetto alla brevità sintetica di questo manifesto appello che abbiamo lanciato, e sono 10 punti programmatici nei quali questi 240 firmatari vi invitano a riflettere se trovate su quei 10 punti altrettanta chiarezza dall'offerta politica che oggi si presenta ai nostri occhi: il vecchio centrodestra, la sinistra indecisa nelle sue alleanze, nelle sue articolazioni, il centro. E su quel sito, oltre a questi 10 punti, ci sono le modalità per aderire e sostenere questa associazione. Non è un partito, è un'associazione, perché ci siamo detti tra i 240 proviamo a verificare gli italiani come la pensino. È del tutto possibile che avremo un numero di sostenitori scarso, e allora in quel caso noi continuiamo a fare quello che facciamo. Io faccio il giornalista, c'è chi fa l'avvocato, c'è chi insegna negli Stati Uniti, una buona pattuglia dei primi promotori appunto sono economisti italiani che insegnano in America, ci sono Michele Boldrin, Sandro Brusco, Alberto Bisin di Noise from America, c'è Luigi Zingales che insegna alla Chicago Boot, c'è l'avvocato De Nicola dell'Ada Smith, c'è Alberto Mingardi e Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni, però ci sono poi gli amici di Imprese che Resistono, c'è qualche rappresentante di cooperative sociali, ci sono imprenditori, ma non c'è Confindustria. I giornali hanno iniziato subito a bollare: ecco la lista di Confindustria, ecco il partito di Giannino, ecco la lista di Marcegaglia. No, non c'è Emma Marcegaglia, che ha condiviso però dall'inizio questa idea, e l'ha condivisa come abbiamo condiviso l'idea che non firmasse, perché è un past president di Confindustria, perché Confindustria ha un impegno statutario a stare lontano dall'attività politica diretta. Ci sono imprenditori, sì, certo, di primo livello, c'è Sergio Dompè, farmaceutico, c'è Antonio Costato, che è stato per 4 anni vicepresidente e che ha fatto un bellissimo libro adesso, in cui propone addirittura che Confindustria riveda le sue modalità organizzative. Ha proposto una Confindustria del nord-est, per esempio per la questione settentrionale. C'è Nicoletta Miroglio, che è presidente a Cuneo, c'è il presidente dei giovani di Confindustria della Campania, ce ne sono tanti altri, ma quello che conta è che io vi chieda, e qui finirò perché non potrò certo farlo, perché altrimenti fareste bene a dire che non tratto una notizia ma mi faccio propaganda, io voglio semplicemente che voi andiate su quel sito www.fermareildeclino.it, guardiate quei 10 punti e rispondiate di fronte a se stessi, a voi stessi, alla domanda: ma c'è chiarezza su quei punti nell'offerta politica attuale? E ci aiutiate a capire se andare avanti oppure no. Può essere che ci siamo sbagliati, che a vostro giudizio la discesa in campo di Berlusconi al centrodestra vi riempie di entusiasmo. Scappa da ridere, ma devo rispettare il vostro punto di vista se è questo. Oppure che la sinistra o nella variante vasto o nella variante vasta o nella variante non vasta vi sembri comunque, dopo gli anni del centrodestra, una prospettiva da verificare comunque, anche se è evidente che ha dei problemi interni grandi come una casa. Oppure Grillo, Grillo con Di Pietro, Grillo senza Di Pietro, fate voi. Noi lì però vi proponiamo un test su questi 10 punti per capire se dobbiamo andare avanti per fare un pezzo di offerta politica. Non lo faremo se non saremo in molte decine di migliaia, cioè se voi non aderite, perché sarà un segnale per dire ciascuno resti a fare il professore, il giornalista, il finanziere, il capo di una cooperativa, il lavoratore autonomo o il lavoratore dipendente. In caso contrario, lì ci sono le modalità di adesione e tutti quanti dal basso, come vi ho sempre detto, secondo me, verificheremo che cosa fare. Dal basso, perché alla domanda avete un leader, chi è, lo tenete nascosto, è Giannino, è Marcegaglia, è Montezemolo, la risposta è no, deliberatamente non c'è un leader, deliberatamente c'è un programma che magari potrà non convincervi, ma che intanto ha convinto noi e che non troviamo nei programmi degli altri e di cui siamo abbastanza consapevoli che potrebbe avere la differenza per tirare euro o non euro l'Italia fuori dalle peste. Euro o non euro, noi dobbiamo abbattere il debito con le privatizzazioni. Io per questo ho cominciato col sindaco Fassino del PD, che ha spiegato come dal suo punto di vista sia anche inevitabile. E dobbiamo poi concentrarci su molti punti di spesa pubblica, da però retrocedere fino all'ultimo euro a chi le tasse le paga di troppo, cioè il lavoro e l'impresa, a differenza di quanto capita ancora oggi. Domanda: ma siete amici di Monti, non amici di Monti? No, però i governi tecnici dopo un po' perdono velocità e carica, perché non lo hanno fatto un patto con gli italiani, non sono vincolati a tagliare spesa per retrocedere tasse, infatti come vedete non avviene. Invece noi proponiamo che avvenga, ma non ci limitiamo a questo, perché abbiamo un'idea definitiva della crisi di credibilità del vecchio centrodestra di Berlusconi. Proponiamo una legge radicale per la soluzione del conflitto di interessi, perché altrimenti non se ne esce più, che non riguarda solo Berlusconi ma è un problema serio nella società italiana. C'è un punto che riguarda la scuola e l'università che va rimessa al centro, la formazione del capitale umano, e lì bisognerà trovare più risorse, ma non per chi ci lavora, non per chi ci lavora, perché la nostra prospettiva è che sanità, servizi pubblici, scuola, va ribaltato il principio. La priorità è colui al quale viene offerto il servizio, lo standard del servizio, la competizione all'interno dell'organizzazione del servizio, il premio al merito di chi deve offrire quel servizio, cose molto lontane da come vediamo organizzata la pubblica amministrazione. A condividere quell'appello c'è gente che viene, io sono un ex repubblicano, figuratevi, ci sono moltissimi ex comunisti, c'è gente che ha fatto il funzionario del PC, l'assessore del PC ad Assago, adesso insegna in America, Sandro Brusco e così via. Siamo una congrega di persone varie e diverse. I giornali dicono che siamo liberali e liberisti, sì è vero, crediamo nel mercato, ma non troverete una sola parola liberale e liberista, perché vogliamo parlare a chi sta peggio ed è senza patrimonio, senza saper parlare a quell'Italia lì, l'Italia non esce dal guaio e ci si spartisce i voti tra destra e sinistra, tra tribù contrapposte. L'intento è molto vasto ed è molto velleitario, io me ne rendo conto. Voi avete tutti i diritti per diffidare di chi ve ne sta parlando da questi microfoni. Per questo io ho sempre detto che c'è molta più gente dietro di me e la cosa non è fatta per me. Io semplicemente però ho maturato convinzione da anni che è possibile cambiare marcia, anche se significa impegnare la propria faccia in una cosa senza che ci siano i soldi dei miliardari autotutelanti come Berlusconi. È una questione complessa, non c'è dubbio. Però limitarsi a protestare e a dire che le cose non vanno e che lo Stato ci depreda e non tentare di fare qualcosa è più sciocco che non dire a tutti proviamoci. Certo, l'Italia è poi malata di divisioni, di odi personali. Figuratevi, già per mettere insieme questi abbiamo passato le notti a dover fronteggiare chi diceva quello non lo voglio, quello mi sta antipatico, quello mi ha rubato la fidanzata, quello è un ladro. Ecco, l'Italia è malata di questo. Cioè a dividere sono tutti buoni, a comporre è una questione più difficile, soprattutto perché chi compone deve essere più credibile degli altri, deve essere più coerente degli altri, deve essere esposto a vedere le proprie macchie di qualunque tipo esposte in pubblico, eccetera, eccetera, eccetera, e questa è la parte complicata della faccenda. Ma noi del vecchio centrodestra non ne vogliamo più sentir parlare. di questa sinistra, con tutto il rispetto, non riusciamo a capire e pensiamo che abbia in mente per una componente elevata politiche che farebbero ancor peggio la credibilità internazionale dell'Italia, per quanto affascinanti perché più distribuzioniste, che è sempre la chiave sulla quale si unisce la protesta popolare. Di Grillo non capiamo le proposte, anche se non pensiamo che sia antipolitica, e allora ci siamo detti, lanciamo questo appello. E l'ultima cosa che vi dico è www.fermareildeclino.it. La cosa che mi ha stupito è che in un sabato e domenica, che erano gli ultimi di luglio, con la gente al mare a 40 gradi, vedere più di 4.500 adesioni in poche ore, e soprattutto con quasi un terzo di questi 4.500 che mette a disposizione tempo, lavoro e professionalità per dedicarsi, insieme a chi ha lanciato l'appello, alla costruzione di un'associazione. Questa associazione si chiama Ali per la crescita, diciamo noi, Ali perché era un'associazione alleanza lavoro impresa, poi questo non è il nome di un partito, non è un partito, è un'associazione, vedremo più avanti, ma questi 4.500 mi hanno colpito, le loro mail mi hanno, come le mail di Disperati Mail, come le mail che mi arrivano in questi mesi da parte vostra e da parte di molti, mi hanno dato il senso che vale la pena che io, oltre che continuare a lavorare, la notte la passi con alcuni amici di qua e di là dal mondo, a seconda dei fusi, a tentare di mettere in piedi prima questa associazione, poi più avanti vedremo. Sì, abbiamo coinvolto sin dall'inizio altri, perché se vogliamo essere compositori dobbiamo essere compositori e non divisori dall'inizio. C'è tutta la prima fila di Italia Futura, che da 2 anni fa fondata da Montezemolo, ma non c'è Montezemolo, e hanno condiviso con noi l'appello e condividono con loro lo spirito di verificare uno schieramento che deve essere ampio, capite? Deve essere ampio e popolare, questa è la cosa di fondo, o altrimenti non sarà. Io vi prometto semplicemente che il mestiere non lo cambierò, e che non sono diventato un piccolo Napoleone di Notting Hill o di via Monterosa, e continuerò, dovrò ancora di più continuare a rispettare il fatto che da questi microfoni dovrò parlare a maggior ragione, con ancora più rispetto di tutti, perché non pensiate che lo utilizzo allo scopo di portare forza all'associazione Ali, a fermareildeclino.it e a quello che mai ne verrà dopo. È molto complicato, perché mi rendo conto che voi siete liberi di diffidare. Fatelo più di prima, come prima, fatelo con lo stesso spirito però di onestà con cui ho sempre utilizzato questo microfono, nel tentativo di parlare dei problemi che vedo senza nascondervi il mio punto di vista. www.fermareildeclino.it. Adesso fine, abbiamo gli ultimi 8 minuti per la nostra consueto pezzo quotidiano di spending review dal basso. C'è di gente che si è tirata le maniche senza aspettare gli obblighi, eccetera eccetera, ha capito che bisogna rimettere ordine nel confuso, troppo esteso, troppo pesante, troppo succhiasangue, troppo tassico dipendente perimetro dell'amministrazione pubblica, e abbiamo visto esempi di comuni che mettono insieme pezzi di servizio oppure hanno deciso un percorso per cui si mettono insieme proprio. Ecco, e il turno di oggi è quello, stiamo nel bolognese, abbiamo con noi Augusto Casini Ropa, che è sindaco di Savigno in provincia di Bologna ed è presidente dell'Unione Comuni della Valle Samoggia. Buongiorno e grazie ad Augusto Casini. Buongiorno. E Alfredo Parini, che è sindaco di Crespellano, sempre in provincia di Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Casini, come il vostro processo di preciso cosa riguarda? Unione di servizi, unione di comuni, da quali esigenze nasce, che tempi di realizzazione ha? Dunque, il nostro non è un progetto di unione, in quanto già esiste un'unione dei comuni della Val Samoggia. Noi, dopo anni di sperimentazione dell'unione, abbiamo pensato che l'unione non dava quei frutti che poteva dare, e abbiamo pensato che la strada più per semplificare maggiormente le cose, per ottenere maggiori risparmi, è quello della fusione. Abbiamo affidato uno studio. E questi sono cinque comuni, sono Savigno, Castello di Serravalle, Monteveglio, Bazzano e Crespellano e Valsamoggia. Esatto, sono cinque comuni che tutti i consigli comunali, con una maggioranza qualificata, anzi con qualche voto di qualche oppositore, che ha dato il via libera a questo processo di fusione, che completerà il suo percorso a novembre con un referendum indetto naturalmente dalla Regione, e da questo referendum si trarranno gli auspici per il futuro. Insomma. Allora, questi cinque comuni, Savigno, Castello di Serravalle, Monteveglio, Bazzano, Crespellano, in Val Samoggia, hanno una popolazione sommata di 30.000 abitanti. E quindi è chiaro che cinque comuni che mettono insieme è tutt'altro ordine di ottimizzazione, di bacino d'utenza e di costi. La domanda è, come sempre, delicata: a chi avete affidato e con quali procedure lo studio e il vaglio di come ottimizzare, una volta fusi, servizi, dipendenti, eccetera? Dunque, l'abbiamo affidato all'Università di Bologna, alla SPISA, che è la Scuola di Pubblica Amministrazione, supportata da alcuni nostri dirigenti, i quali hanno fornito tutta una serie di documentazione per verificare la. È chiaro che ulteriori approfondimenti saranno possibili da qui dal momento in cui i cittadini diranno di sì, ma tenga presente che uno dei problemi nostri è riuscire a coniugare sì i risparmi, l'efficientamento delle macchine comunali, eccetera, eccetera, con la partecipazione, perché il rischio è un forte distacco dei cittadini. Cambiare, lei parlava della necessità di cambiare, noi ci siamo messi proprio in questa ottica, è necessità cambiare ed è possibile cambiare. Ma quello che è difficile è ricomporre, lo stiamo verificando quotidianamente con le assemblee, con i cittadini, perché molte volte i cittadini pensano che non li riguardi il problema, è sempre di altri, mentre in realtà noi pensiamo che il fatto di questo paese ha necessità di riattivare la partecipazione della gente, di riprendersi in mano anche il proprio comune, le spese del proprio comune, conoscere, vedere quali sono le priorità. Anzi, io sono convinto che più ci appropriamo dell'idea che il più delle nostre spese avvenga nel livello più vicino e meglio possiamo controllare, io credo più elevato diventa il tasso, esatto, di adesione all'ordinamento, si abbassa l'evasione fiscale, eccetera, eccetera, eccetera. Esatto. Parini, sindaco di Crespellano, c'è stato chi ha avuto dubbi nelle comunità locali, dei residenti, dei cittadini? Beh, sicuramente nei cittadini ci sono delle domande, ci pongono delle domande e c'è sicuramente chi ha dei dubbi. Noi abbiamo fatto una serie di assemblee con i cittadini e abbiamo tentato di fugare questi dubbi. I dubbi sono sempre di natura molto pratica, tipo io abito nella tal via, questa via c'è anche nell'altro comune, domani io dovrò cambiare il nome alla via, dovremo cambiare il nome alla via, devo rifare i documenti, tutta una serie di domande molto pratiche alle quali noi abbiamo dato delle risposte per quegli elementi dei quali noi avevamo già la conoscenza, e poi adesso avremo modo per tutto il 2013 di confrontarci ancora e rispondere puntualmente a diversi aspetti. Ma non è che sì, non è che, voglio dire, noi abbiamo visto quando ci siamo occupati della Toscana che quando si parlava tra Prato, Pistoia e Firenze, insomma, l'elemento storico purtroppo delle divisioni ha avuto un forte peso nel rallentare il progetto. Da voi elementi di questo tipo non ci sono invece? Ci sono anche elementi di questo tipo, però direi che l'elemento storico è quello che ci accomuna più di tutti, perché se è vero che la nostra unione dei comuni è fatta di 6 comuni, uno di questi era con noi solo perché apparteneva alla comunità montana nella revisione territoriale della provincia, della regione, è anche vero che i 5 comuni che si fondono sono i veri cinque comuni della Val Samoggia, che hanno una storia comune, hanno delle abitudini comuni, per cui il percorso che noi facciamo è un percorso sicuramente di carattere economico, nel senso che lo dicono i numeri stessi, se invece di 5 sindaci c'è un sindaco, se invece di 5 consigli comunali c'è un consiglio comunale, se invece di 5 giunte c'è una giunta, è ovvio che già da lì dei risparmi ne vengono, ma c'è anche proprio una questione di storica, di comuni che comunque ci sono sempre stati degli interscambi, e dal passato ad ora questi interscambi si sono sempre più intensificati. Il fatto stesso che la comunicazione, i mezzi di trasporto siano oggi portino maggiormente la gente a muoversi, questo ci aiuta. Dal punto di vista delle attività economiche, Casini, mettersi insieme, che cosa significa per l'attrattività del territorio, per chi ha già un'impresa aperta, è semplicemente un minor onere sull'iter delle pratiche, eccetera, eccetera, o in realtà le scale di sinergia maggiori mettendosi insieme dal punto di vista dell'economia, quali sono? Lei ha toccato proprio il punto cruciale, cioè se facciamo questa cosa non la facciamo solo per risparmiare i 2 soldi per i sindaci, l'obiettivo nostro è creare un sistema economico di area vasta. i piccoli comuni da soli non riescono a fare economia, non riescono a essere interlocutori di aziende. Io con, ho 2.800 abitanti, un bilancio che ho più strade che abitanti, capisce bene che faccio fatica a fare economia. Se io invece vedo Savigno è la parte alta della Val Samoggia, se sono insieme agli altri e vedo unitariamente la gestione, per esempio, di tutta l'agricoltura o del sistema turistico, noi siamo specializzati, siamo conosciuti per il tartufo, ma se vedo il tartufo come un'occasione di sviluppo turistico e non gastronomico di tutta la vallata, ho più forza, posso avere alle spalle un comune più forte che riesce a creare sinergie, riesce a dialogare più facilmente con altre realtà. Ed è questo il nostro augurio al comune della Val Samoggia. Noi continueremo in questi giorni a dare testimonianza a chi dal basso unisce le mani, si tira sulle maniche e costruisce pezzi d'Italia che guardano più lontano di quanto le semplici regole per ripartire il debito obblighino comunque a fare. E in più guardate su www.fermareildeclino.it. lo so, fa ridere che un giornalista si debba mettere a supplire l'offerta politica, però se pensate che l'offerta politica vi fa schifo, leggete. E per il resto, appuntamento a domani.